Capitolo 7. Il padre era sempre felice di procurare a Charlotte un'occasione di movimento, vedendo quanto beneficio ne traeva, per quanto riluttante fosse in un primo tempo ad allontanarsi da casa e da lui. Quell'agosto fu invitata a trascorrere una settimana nelle vicinanze di Bowness, dove Sir James K. Shuttleworth aveva preso una casa. Ella dice: acconsentii con riluttanza, lo feci principalmente per accontentare papà, che sarebbe stato assai contrariato da un mio rifiuto. A me non piace lasciarlo. Spero che non stia peggio, ma continua ad accusare una grande debolezza. Oh, non è giusto anticipare le disgrazie e guardare sempre al futuro con apprensione, ma penso che il dolore sia una spada a due tagli, ferisce da ambo i lati. Il ricordo di una perdita ne anticipa un'altra. Fu durante questa visita a Briary, Lady Kay Shuttleworth avendo gentilmente invitato anche me affinché la incontrassi, che feci la conoscenza di Miss Bronte. Se ricopio parte di una mia lettera scritta dopo quell'incontro a un'amica che provava grande interesse per i suoi scritti, probabilmente renderò la mia prima impressione con maggior verità e freschezza che non aggiungendo una più lunga descrizione. Scrivevo: era già buio quando giunsi alla stazione di Windermere. Una scarrozzata lungo la strada pianeggiante fino a Lowood, poi una fermata a una piacevole casa e poi un gradevole salotto nel quale si trovavano Sir James e Lady Kay Shuttleworth e una piccola signora vestita di seta nera che a tutta prima non potei vedere essendo abbagliata dalla luce del fuoco. Si alzò subito e venne a stringermi la mano. Andai di sopra per togliermi il cappello e scesi per prendere il tè. La piccola signora continuava a lavorare di cucito e quasi non aprì bocca, ma io ebbi tutto il tempo di guardarla bene. È, come dice di se stessa, fisicamente sottosviluppata, magra e più di una mezza testa più bassa di me. Ha morbidi capelli bruni, non molto scuri, occhi molto belli ed espressivi che guardano apertamente diritto nei vostri, dello stesso colore dei capelli. Bocca grande, fronte quadrata, larga, piuttosto curva. Ha una voce molto dolce. Esita alquanto nella scelta delle espressioni, ma una volta scelte esse sembrano senza sforzo ammirevoli ed esattamente adatte all'occasione. Non vi è in lei nulla di forzato, i suoi modi sono perfettamente semplici. Dopo la prima colazione siamo uscite tutte e quattro sul lago e Miss Bronte fu d'accordo con me nel dire che le piaceva Anima di Mr. Newman e i pittori moderni e l'idea generale di Le Sette Lampade e mi parlò delle conferenze di padre Newman all'Oratory in modo quieto, conciso e preciso. Charlotte somiglia a Miss più di chiunque altra. Se ti è possibile immaginare una Miss che abbia attraversato dolori tali da essere priva di ogni scintilla di gaiezza e che per il protrarsi di un'estrema e intensa solitudine sia diventata timida e silenziosa. Non avevo mai immaginato prima una vita simile a quella di Miss Bronte, in un villaggio di case di pietra grigia che, appollaiato sul versante settentrionale di una landa desolata, guarda su una ondulata distesa di brughiera, eccetera, eccetera. Siamo state insieme solamente 3 giorni, dei quali abbiamo trascorso la maggior parte facendo brevi gite in carrozza per far conoscere a Miss Bronte lo scenario naturale del Westmoreland, visto che non vi era mai stata prima. Fummo tutte e due incluse in un invito a prendere il tè in una piccola riunione a Fox Howe e in quell'occasione ho potuto vedere quanto i suoi nervi erano agitati dalla prospettiva di trovarsi da lì a poco fra persone strane. Sapevamo che quelle presenti alla riunione non sarebbero state più di 12, ma lei soffrì tutto il giorno di un fortissimo mal di capo, cagionato dall'apprensione della serata che l'attendeva. Briley Close è situata in posizione elevata rispetto a Lowood e permette la veduta di un vasto panorama e di un esteso orizzonte. Sono stata colpita dalla cura con cui Miss Bronte esaminava la forma delle nuvole e gli altri segni del cielo, dove leggeva, come in un libro aperto, quale tempo ci si poteva aspettare. Le dissi che da casa sua doveva godere di una vista altrettanto vasta. Rispose che non mi ingannavo, ma che la prospettiva che si aveva a Haworth era completamente diversa. Non potevo farmi un'idea di che compagno diventasse il cielo per chi viveva in solitudine, più di un qualsiasi altro oggetto inanimato al mondo, più della brughiera stessa. Le citazioni seguenti ci fanno conoscere alcune sue impressioni e reazioni durante quella stessa visita. Tu dici che avrei dovuto trattenermi più a lungo di una sola settimana nel Westmoreland. Dovresti ormai conoscermi meglio. Mi riesce forse di indugiare a lungo dopo la data stabilita per la partenza. Sono tornata a casa e sono lieta di dire che papà sembra almeno non star peggio di quando l'ho lasciato. Tuttavia vorrei che fosse più forte. La mia visita è andata benissimo. Sono contentissima di essere andata. Lo scenario naturale è grandioso. Se avessi potuto passeggiare tra quelle colline da sola, ne avrei potuta assorbire tutta la bellezza. Anche in carrozza e in compagnia è stata un'ottima esperienza. Sir James è stato quanto più possibile gentile e amichevole. Si è rimesso quasi completamente. Miss Martineau era assente. Lascia sempre la sua casa di Ambleside durante l'alta stagione della regione dei laghi per sottrarsi alle inevitabili visite dei turisti. Se solo avessi potuto sgusciar via inosservata dalla carrozza e andarmene da sola in mezzo a quelle maestose colline, per quelle piccole valli soavi, avrei potuto imbibirmi di tutta la potenza di quello scenario stupendo. In compagnia non lo si può fare. Per tutto il tempo che Sir James mi metteva in guardia contro i difetti della genia degli artisti, vagabondi istinti artistici erano attivi nella mente di chi lo ascoltava. Ho dimenticato di dirti che circa una settimana prima della mia partenza per il Westmoreland ricevetti un invito a Harden Grange, che naturalmente declinai. 2 o 3 giorni più tardi, un folto gruppo capitò qui, formato da Mrs. F. e da varie altre signore e da 2 signori. Uno dei quali, alto e maestoso, dai capelli neri e tanto di fedine, si rivelò essere Lord John Manners. L'altro, di aspetto meno distinto, timido e piuttosto strano, Mr. Smith, figlio di Lord Stanford. Mrs. F. è una vera signora, sia nei modi che nell'aspetto, molto gentile e semplice. Lord John Manners portò di persona a papà un paio di galli cedroni, un regalo benvenuto. 1 o 2 giorni prima papà aveva espresso il desiderio di mangiarne. Devo aggiungere un passo preso da una lettera scritta in quello stesso tempo. È indirizzata a Miss Wooler, la gentile e affettuosa amica dell'adolescenza e della maturità che aveva invitato Charlotte a passare una quindicina di giorni nel suo cottage. Haworth, 21 settembre 1850. Quando le avrò detto che in questa stagione sono già stata ai laghi e che sono ritornata a casa da poco più di un mese, lei capirà che non mi è più possibile accettare il suo gentile invito. Vorrei poter venire, ma ho già fatto la mia gita e il capitolo è chiuso. Sir James K. Shuttleworth risiede nelle vicinanze di Windermere, in una casa detta la Briery, ed è lì che ho soggiornato per un po' di tempo lo scorso agosto. Molto gentilmente mi fece vedere i dintorni, come è possibile vederli da una carrozza. E mi sono resa conto che il distretto dei laghi è una splendida regione, una bellezza che ho visto solo in sogno, sia dormente che a occhi aperti. Decisamente ho scoperto che non mi si confà per seguire la ricerca del pittoresco da una carrozza. Un carro, un calessino, perfino una diligenza andrebbero bene, ma il cocchio cambia ogni cosa. Agognavo di sgusciar via non vista e di fuggirmene per conto mio attraverso colline e valloncelli. Gli istintivi impulsi erratici e vagabondi mi tormentavano, ma ero costretta a controllarli, o per dir meglio, a soffocarli per tema di dimostrarmi entusiasta anche in minimo grado e attrarre così l'attenzione sulla leonessa, la scrittrice. Lei mi dice di supporre che ormai mi sia fatta una larga cerchia di relazioni. No, non posso dire che sia così. Dubito di avere sia il desiderio che la capacità di farlo. Mi piacerebbe avere alcuni amici e conoscerli bene. Se alla conoscenza corrisponde la stima, non potrei non concentrare su di loro i miei sentimenti. La dispersione equivale, penso, alla diluizione. Tuttavia, fino a questo momento non sono stata messa alla prova. Durante il mese che trascorsi a Londra, in primavera, me ne sono rimasta molto quieta, avendo davanti agli occhi lo spettro del protagonismo. Andai a pranzo fuori una volta presi parte a una festa di sera, e le uniche persone da cui sono stata ospite per un certo periodo di tempo sono Sir James K. Shuttleworth e il mio editore. Non vorrei allontanarmi da questa regola, e per quanto ne so, molte frequentazioni si traducono solamente in una perdita di tempo e di carattere. Per di più, non sarebbe ben fatto lasciare spesso papà. È ormai nel 75° anno di età, le infermità della tarda età incominciano a farsi strada in lui. Durante l'estate è stato molto provato da una bronchite cronica, ma grazie al cielo ormai sta meglio. In quanto a me, la salute ha tratto beneficio dal cambiamento di scena e dall'esercizio fisico. Un tale D dichiara di poter autorevolmente affermare che mentre era a Londra, Miss Bronte trascurò di partecipare al servizio divino nei giorni prescritti e che durante quelli feriali passò il tempo in giro per balli, teatri e opere liriche. D'altro canto, i pettegoli londinesi si meravigliano della vita ritirata che vi ho condotta e immaginano assurdi romantici motivi per questo comportamento. All'inizio ero solita ascoltare con interesse e con una certa credulità quanto mi veniva riferito, ma poi mi sono fatta sorda e scettica. L'esperienza mi ha insegnato quanto quelle storie siano prive di fondamento. Trascrivo ora parte della mia lettera che ebbi il privilegio di ricevere da Miss Bronte in data 27 agosto. Papà e io abbiamo appena finito di prendere il tè. Ora lui siede tranquillamente nella sua stanza e io nella mia. Tempeste di pioggia infuriano sul giardino e sul cimitero, in quanto la brughiera è nascosta da una fitta nebbia. Benché sola, io non mi sento infelice. Ho mille cose per cui rendere grazie al cielo e fra le altre di aver ricevuto una lettera da lei stamane e di godere questa sera del privilegio di rispondervi. Non conosco la vita di Sidney Taylor. Appena ne avrò l'opportunità me la procurerò. Anche il libricino francese di cui lei fa menzione troverà posto nella lista dei libri da richiedere al più presto. Tratta argomenti che interessano ogni donna, forse più le nubili, benché in verità le madri come lei lo studino per amore delle loro figlie. Non vedo regolarmente la Westminster Review, ma qualche tempo fa me ne è capitato un numero tra le mani, quello dello scorso gennaio, mi pare, nel quale vi era un articolo intitolato «La missione della donna», frase ripetuta troppo spesso, che contiene moltissime idee giuste e piene di buonsenso. Gli uomini incominciano a considerare la posizione della donna in una luce diversa da quella a cui erano abituati e alcuni uomini, dalle simpatie generose e dal forte senso di giustizia, ne pensano e ne parlano con una franchezza che li impone alla mia ammirazione. Dicono, tuttavia, e in parte ha ragione, che il miglioramento della nostra condizione dipende da noi. Certamente vi sono dei mali che i nostri sforzi potranno superare, ma altrettanto certamente ve ne sono altri profondamente radicati nelle fondamenta del sistema sociale sui quali nessuno sforzo nostro può influire, dei quali non c'è possibile lamentarci, a cui è meglio non pensare troppo spesso. Ho letto in Memoriam di Tennyson, o per meglio dire, ne ho letto una parte. Ho chiuso il libro circa a metà. È bello, è funebre, è monotono. Molti dei sentimenti espressi hanno lo stampo della verità. Tuttavia, se Arthur Hallam fosse stato più strettamente unito ad Alfred Tennyson, suo fratello invece che suo amico, avrei dubitato di questo ritmato, rimato e misurato e stampato monumento al dolore. Che cambiamenti il passare degli anni possa operare, non lo so, ma mi sembra che un amaro dolore, quando è recente, non si sfoga in un flusso di versi. Le promisi di mandarle in preludio il preludio di Wordsworth e l'ho spedito per posta. L'altro piccolo volume seguirà tra un giorno o due. Sarò lieta di avere sue notizie quando avrà tempo di scrivermi, ma non lo dovrà mai fare per nessuna ragione al mondo se non vi sarà spinta dal desiderio e se non ne avrà avuto il tempo. Non la ringrazierei mai per una lettera che le fosse sembrata da scrivere per dovere. Poco tempo dopo, il nostro incontro alla Briary mi inviò il volume delle poesie di Currer, Ellis e Acton Bell e così ne facendo nella lettera che accompagnava il pacco. Il piccolo volume di versi è il compimento di una promessa avventata e quella promessa è stata fatta per impedirle di sprecare 4 scellini in un acquisto poco giudizioso. Non mi piace il mio contributo al lavoro, né vorrei che venga letto. Quello di Ellis Bell lo trovo buono e vigoroso, e quello di Acton ha il merito della sincerità e della semplicità. I miei versi sono principalmente produzioni giovanili, l'inquieta effervescenza di una mente che rifiutava la quiete. In quei giorni il mare era troppo spesso agitato e tempestoso, e le alghe e i rifiuti venivano a galla nel tumulto. Questa immagine di gran lunga troppo magniloquente per l'argomento, ma lei mi scuserà. Un'altra lettera di un certo interesse fu indirizzata su per giù alla stessa data a un suo amico letterato. 15 settembre. La ricomparsa dell'Ateneum è molto ben accetta, non solo di per sé, benché io consideri un privilegio la possibilità di scorrerne le pagine, ma perché, in quanto pegno settimanale di ricordo amichevole, rallegra da piacere. Temo solo che il trasmettermelo settimanalmente diventi un impegno troppo gravoso, se fosse così lo interrompa subito. Ho veramente goduto la mia gita in Scozia, pur avendo visto ben poco del paese, ma Edimburgo, Melrose, Abbotsford, questi tre luoghi da soli sono stati sufficienti a suscitare sentimenti di così profondo interesse e ammirazione che, né sul momento né in seguito, ho lamentato la mancanza di un più vasto spazio dove espandere la mia felicità. Come dice il proverbio, un poco vale tanto quanto un festino. La regina ha avuto veramente ragione di scalare il seggio di Arturo insieme col marito e i figlioli. Non dimenticherò mai quello che provai quando, avendo raggiunto la vetta, ci mettemmo tutti a sedere e lasciammo spaziare lo sguardo sulla città, verso il mare e Leith e le colline di Pentland. Senza dubbio si sentirà orgogliosa di essere originaria della Scozia, orgogliosa del suo paese, della capitale, dei figli e della letteratura che ha prodotto. Nessuno la può biasimare. L'articolo nel Palladium è uno di quelli di cui uno scrittore si rallegra tremando, si rallegra nel vedere il proprio lavoro finemente, pienamente, fervidamente apprezzato e trema sotto la responsabilità di cui un simile apprezzamento sembra investirlo. Mi consigliano di aspettare, di osservare. Farò così. Tuttavia è più difficile aspettare con le mani legate, mentre le facoltà di osservazione e di riflessione sono intente al loro invisibile, silenzioso lavoro che non mettersi meccanicamente all'opera. Non ho bisogno di dire quel che ho provato alle osservazioni su cime tempestose. Risvegliarono in me sentimenti più tristi e anche molta gratitudine. I giudizi sono veri, perspicaci, sono pieni di tardiva giustizia, troppo tardi, ahimè. Tuttavia non è saggio parlare molto di ciò e delle stilettate di rimpianto per quella luce prematuramente spenta. Chiunque sia l'autore di quell'articolo, io sono sua debitrice. Tuttavia, anche qui, Shirley è avvilita in confronto a Jane Eyre, eppure con Shirley mi sono impegnata a fondo. Non vi ho messo fretta, ho tentato di fare del mio meglio e avevo l'impressione che non fosse inferiore al lavoro precedente, anzi, gli ho dato più tempo, pensiero e cura. Ma la maggior parte fu scritta sotto le ombre di un'imminente calamità e l'ultimo volume, non posso negarlo, fu composto nell'ardente, ansioso tentativo di combattere sofferenze mentali a malapena tollerabili. Capitolo 8. Verso quel tempo sembrò opportuno far uscire una seconda edizione di Cime Tempestose e di Agnes Grey, i romanzi delle sorelle, e Charlotte si assunse il compito di prepararne la pubblicazione. Il 29 settembre 1850 scrisse a Mr. Williams: «È mia intenzione scrivere poche righe di commento a Cime Tempestose, che mi propongo di presentare sotto forma di breve prefazione al romanzo. Mi sto costringendo a rileggerlo, riaprendo il libro per la prima volta da quando mia sorella è morta. La sua forza mi colma di rinnovata ammirazione. Tuttavia, sono oppressa. Alla lettrice non viene quasi mai concesso di gustarsi un piacere puro. Ogni raggio di sole si fa largo tra nere sbarre di nubi minacciose. Ogni pagina è sovraccarica di una specie di elettricità morale e la scrittrice ne era inconsapevole, nulla poteva fargliene prendere coscienza. Questo mi induce a riflettere, forse anch'io sono incapace di vedere le falle del mio proprio stile. Avrei piacere di correggere le bozze se non sarà troppo disturbo inviarmele. Mi sembra consigliabile modificare l'ortografia usata per riferire i discorsi del vecchio servo Joseph, perché, anche se quale ora riproduce esattamente il suono del dialetto dello Yorkshire, sono sicura che i meridionali lo troverebbero inintelligibile, e così una delle figure più espressive e caratteristiche del libro andrebbe perduta per loro. Dico con dolore di non possedere alcun ritratto delle mie due sorelle. Alla più cara amica che ha conosciuto e voluto bene alle sue sorelle, scrive con maggior libertà, rivelando quanto sia penosa l'impresa a cui si è accinta. Non c'è ragione di preoccuparsi. Ti scrivo una riga come desideri solamente per dirti che sono molto occupata. Mr. Smith vuole fare una ristampa di alcuni lavori di Emily e di Anne, con alcune brevi aggiunte dalle carte che hanno lasciato, e io sono stata impegnata nel rivedere, trascrivere, preparare una prefazione, una notizia, eccetera. E siccome il tempo per farlo è limitato, sono costretta ad affrettarmi. Dapprima ho trovato il compito terribilmente penoso, deprimente, ma ho continuato considerandolo alla stregua di un sacro dovere e ora ne sopporto meglio l'impatto. Tuttavia è un lavoro che non posso fare di sera perché se lo facessi di notte non riuscirei a dormire. Papà, sono lieta di dirlo, sta meglio in salute, così penso io pure. Confido che tu possa dire lo stesso di te. Ho ricevuto recentemente una gentile lettera di Miss Martineau. È di ritorno da Ambleside e ha saputo della mia visita ai laghi. Si dice spiacente di non esservi stata in quei giorni. Sono sorpresa e irritata con me stessa di non essere in migliori condizioni di spirito, di non abituarmi o perlomeno rassegnarmi alla solitudine e all'isolamento che mi sono toccate in sorte. Ma la mia recente occupazione ha lasciato uno strascico per alcuni giorni e a dire la verità, ancora oggi molto penoso. Il rileggere carte, il riaccendersi dei ricordi hanno rinnovato lo strazio della perdita e hanno cagionato una depressione dello spirito poco meno che intollerabile. Per una o due notti non ho saputo come fare per arrivare fino alla mattina e quando la mattina giungeva continuavo a essere posseduta da un senso di dolorosa desolazione. Ti dico queste cose perché mi è assolutamente necessario uno sfogo. Mi perdonerai e non ti preoccuperai, né immaginerai che io stia anche solamente un pochino peggio di quanto ti dico. È una vera e propria indisposizione mentale e credo e spero che vada passando. Lo penso perché ora ne posso parlare, il che non mi riesce mai quando tocco l'acme del dolore. Pensavo che a casa da sola avrei dedicato tempo e interesse allo scrivere. Ma fin qui ogni tentativo è stato vano. La mancanza di ogni stimolo è così completa. Tu mi raccomanderai di allontanarmi da casa, ma non servirebbe a niente. Anche se potessi lasciar solo papà nuovamente senza preoccupazioni, grazie a Dio sta meglio. Non so descrivere quel che ho dovuto passare al mio ritorno da Londra, dalla Scozia. Vi fu in me una reazione che mi sprofondò sottoterra. Il silenzio mortale, la solitudine. La desolazione furono terribili. La brama di compagnia, l'inutile speranza di trovar sollievo furono tali che il pensiero di provare nuovamente tutto ciò mi sgomenta. Cara, quando penso a te, è con una compassione e una tenerezza che non mi rallegrano. Temo che anche tu mentalmente sia troppo sola e troppo scarsamente occupata. Sembra che questa sia la nostra sorte, almeno per ora. Possa Dio, nella sua misericordia, aiutarci a sopportarla. Durante la visita a Londra, come dice in una delle sue lettere, aveva incontrato il suo corrispondente, Mr. Lewis. Questo signore dice in proposito: alcuni mesi dopo la pubblicazione della recensione di Shirley sulla rivista Edinburgh, Carer Bell venne a Londra e io fui invitato a incontrarla. Lei forse lo ricorda, ella la pregò di non indicarmi a lei per permetterle di individuarmi da sé, se ne fosse stata capace. Mi individuò quasi subito dopo il mio ingresso nella sala. Lei mi disse, mi mise alla prova allo stesso modo e io fui sagace. In ogni modo sedetti al suo fianco per buona parte della serata e fui assai interessato dalla sua conversazione. Quando ci congedammo, stringendoci la mano, mi disse, ora siamo amici, non è vero? Non lo siamo sempre stati dunque? Chiesi io. No. Non sempre, disse lei, sottolineando le parole col tono, e questa fu l'unica allusione all'articolo che l'aveva offesa. Le imprestai alcuni romanzi di Balzac e di George Sand da portare con sé in campagna, e nel restituirmeli mi scrisse la seguente lettera: sono certa che avrà pensato che io tardavo molto a restituirle i libri che così gentilmente mi aveva imprestato. Il fatto è che, avendo altri volumi da spedire, ho trattenuto i suoi per includerli in un solo pacco. Voglio gradire i miei ringraziamenti per alcune ore di piacevole lettura. Balzac è stato per me uno scrittore del tutto nuovo e nel fare la sua conoscenza per mezzo di Modeste Mignon e di Illusion Perdue non si può mettere in dubbio che io abbia provato un qualche interesse. A tutta prima pensai che era troppo minuzioso e spaventosamente tedioso. Ci si impazientisce del suo lungo elenco di particolari, la sua lenta rivelazione di circostanze prive di importanza, mentre raduna i suoi personaggi sulla scena. Ma a poco mi è parso di penetrare il segreto del suo procedimento e di scoprire con delizia in che cosa consiste la sua forza. Non è forse nell'analisi dei motivi e nella sottile percezione del più sicuro e segreto lavorio della mente? Tuttavia, per quanto si possa ammirare Balzac, penso che non piaccia. Si sente per lui quello che si prova per un antipatico conoscente che mette continuamente in piena luce i nostri difetti, mentre solo raramente presenta in primo piano le nostre qualità. Sinceramente preferisco George Sand. Fantastica, fanatica, poco pratica, entusiasta com'è frequentemente. Quanto lungi dalla verità sono molti dei suoi punti di vista, sicuramente fuorviata dai suoi sentimenti. L'indole di George Sand è migliore di quella di Monsieur de Balzac. La sua mente è più ampia e il suo cuore è più caldo di quello di lui. Le lettere d'un voyageur traboccano dell'ego della scrittrice e nel leggere questo lavoro non ho mai sentito più chiaramente come la maggior parte dei suoi difetti nascano dall'eccesso delle sue buone qualità. È questo eccesso che spesso l'ha messa in gravi difficoltà e le ha preparato duraturi rimpianti. Ma credo che la sua mente appartenga a quella categoria alla quale le esperienze disastrose insegnano senza indebolire né provocare eccessivo scoraggiamento. E in questo caso, quanto più a lungo vivrà, tanto migliore diventerà una caratteristica presente in tutto quanto scrive che induce a sperare bene. È la scarsità del falso sentimentalismo francese. Vorrei poter dire la sua assenza, ma quell'erbaccia prospera qua e là, perfino nelle lettere. Ricordo la bella espressione di disgusto di cui Miss Bronte fece uso nel parlarmi di alcuni dei romanzi di Balzac. Mi lasciano un così cattivo sapore in bocca. La lettrice noterà che la maggior parte delle lettere che ora cito vertono su argomenti critici e letterari. Questi erano in realtà i principali interessi del momento per Charlotte. La revisione dei lavori delle sorelle e la stesura di una breve nota fu la quotidiana penosa occupazione di quell'autunno 1850. Logorata dai troppo vividi ricordi, cercava sollievo in lunghe passeggiate nella brughiera. Una sua amica che mi scrisse quando sul Daily News fu pubblicato un eloquente articolo sulla morte di Currer Bell riferisce un aneddoto che trova qui la giusta collocazione. Sbaglia chi dice che fosse troppo debole per vagare sulle colline e godere il beneficio dell'aria pura. Credo che nessuno, e certamente nessuna donna, in questi luoghi camminò tanto nella brughiera come fece lei, purché il tempo lo permettesse. Anzi, aveva talmente l'abitudine di farlo che la gente che vive molto lontano sulla linea di demarcazione della nostra area la conosceva benissimo. Ricordo una volta che una vecchia la vide a poca distanza e la chiamò gridando: «Ehi, Miss Bronte, ha visto per caso la mia vitella?» Miss Bronte rispose che non lo poteva dire visto che non la conosceva. «Bene», replicò quella, «sta crescendo ora da vitellina a mucca, quel che diciamo una vacchetta, come lei sa, Miss Bronte. Vuol spingerla da questa parte se per caso la vede quando tornerà indietro, Miss Bronte? Per piacere, Miss Bronte!»